Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non m'hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva.